Pietro, è il papà che ti parla. Ho bisogno ancora di un mese e mezzo, dammi un mese e mezzo, devo fare quel documentario sulle elezioni, ti ricordi di cui ti avevo parlato? Voglio filmare la campagna elettorale della destra e quella della sinistra, del centro-sinistra. Del centro-centro-sinistra. Loro ci insultano, ma noi non dobbiamo reagire, Per carità, noi dobbiamo rassicurare i cittadini. Dobbiamo rassicurare. Non ci sono novità. C'è sempre chi sta sopra e chi sta sotto, e chi sta sopra di certo non se ne andrà. Cambiano i tempi, i momenti, seguono gli eventi storici, ma dopo cambiamenti catastrofici ritorna tutto alla normalità. Cade la monarchia, sale la DC, e quando cade la DC risale la DC, bella la democrazia. Ci vuole un ABC fantapolitico, perché questa gentaglia ha carenze di fantasia. Dai di essa Forza Italia, l'Italia ripudia la guerra tranne quando è umanitaria. Ricordate Jugoslavia? Dal Kosovo all'Iraq sono 10 anni che la pace si amministra con missili terra, aria. E mo vengono a dirmi che i cattivi sono cattivi tutti uguali, i fascisti uguali ai partigiani. Sarà chi ha portato libertà in questo paese, ne ha fatto le spese, mentre i fasci convertiti mantenevano le proprie posizioni di potere. Ed è così, tutto si ripete. Scegli tu, scegli tu, scegli tu. Il tuo voto è sostanziale. In sostanza, puoi scegliere un regime militare o un regime militare. Puoi farti consigliare nella stanza guardando la TV. Scegli tu, scegli tu, scegli tu. Il tuo voto è sostanziale. In sostanza, puoi scegliere un regime militare o un regime militare. Puoi farti consigliare nella stanza guardando la TV. Scegli tu, scegli tu, scegli tu. Quale nazione conquistare con i soldi dedicati all'istruzione, istruzione da importare. Dedicare tutto il tempo che ci resta a spaccarci la testa con un'altra distrazione. Che scambiano il bianco con il nero, precipitiamo piano, mentre il fascista va a braccetto con il clero. Sclero nel pensare che lo stato delle stragi ci tiene imbrigliati e fa passare per davvero leggi scritte da deviati sulla testa di ciclisti morti senza scorta. C'è presente Marco Biagi? Per ogni porta che si apre sono 7 porte chiuse. Ad ogni piccola battaglia un'altra legge reazionaria già riporta quest'Italia sulla soglia fra il pudore e la vergogna. E se la gogna questi infami ha messo il corpo morto di Giuliani, ucciso per gli approcci militari di un governo di somari. Non penso che la colpa sia del medium che ci rende tutti schiavi, ma piuttosto il desiderio di regime che è nascosto in quasi tutti gli italiani.